9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Buongiorno, lo zoo comunale, titolo di tutti i giornali. Il PDL si ribella a Berlusconi, dice Alfano, fine delle barzellette. Cioè, fine delle trasmissioni, allora. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera. Vengo anch'io. E per far tornare la primavera, idea dei custodi giudiziari dell'impianto dell'Ilva di Taranto. Tagliano rifornimenti all'Ilva, autorizzate giacenze di minerali solo per i 15 giorni e non più di 15.000 tonnellate. L'azienda, a questo punto, l'autorizzazione ambientale non c'entra, vogliono solo farci chiudere lo stabilimento. L'unico paese al mondo in cui si esce dagli energivoli perché lo decide un giudice. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. A proposito di un mondo migliore, concorso per professori, 321.000 domande per 11.000 posti. Solo il 3,6% ce la farà. Che come faranno? La selezione quando si scendono dai carri bestiame nei vecchi film, quelli purtroppo che gli ebrei hanno vissuto sul serio nei campi di concentramento? Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. Inizia il congresso del Partito Comunista Cinese. Il leader uscente dice: non saremo mai come voi occidentali. Alcuni nel nostro occidente iniziano a pensare: ma non è che per caso hanno ragione loro? Non ci hanno avuto neanche Berlusconi, se cinesi. Di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Allora, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, in questo venerdì 9 di novembre 2012 il tema che abbiamo posto al centro della puntata è la modalità, oltre che il merito, della protesta decisa dai presidenti delle province di fronte a tagli delle 36 amministrazioni provinciali adottate, indicate dal governo Monti. Su tutti i giornali, ma lo avete saputo già dai telegiornali ieri sera, sapete che i presidenti delle province hanno annunciato sì una via giudiziale per impugnare il provvedimento, hanno annunciato ricorso al TAR, però hanno adottato anche una modalità, diciamo, innovativa per fare in modo che se ne parli, ed è una modalità che fa molto discutere, perché la modalità è quella di lasciare la scuola al freddo e di fare vacanze più lunghe. cito una sola reazione che mi ha molto colpito, perché viene da un ministro poi che a sua volta ha fatto molto discutere quando disse che la riforma del mercato del lavoro non si adattava e non si applicava ai dipendenti pubblici, il ministro Patroni Griffi, il ministro della funzione pubblica, contro il quale ho più volte protestato io stesso, perché credo che rappresenti più appunto il blocco dell'apicale del pubblico impiego, dei pubblici dirigenti all'interno del governo, che noi cittadini. E in una intervista al Messaggero, che da oggi tra l'altro è anche in nuovo formato grafico, rilascia un'intervista dal titolo "Colpiscono i ragazzi per difendere le loro poltrone". Vi leggo l'attacco di questa intervista: la questione della riduzione di spesa è diversa da quella del riordino, sono due piani di spesa distinti, il mio ministero insieme con quello dell'interno si è occupato di tutto ciò che riguarda il nuovo assetto istituzionale, dunque funzioni, dimensioni e governance. Risparmi di spesa e revisione degli apparati, dice il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, vanno insieme. E come si vede, dice che le sedi che fine faranno delle 36 province in meno, quelle in affitto si potranno dismettere subito. Domanda ai dipendenti: si potrà porre un problema di spostamenti tra di uffici, non prima di un anno comunque, in ogni caso erano stabiliti i criteri nel confronto con il sindacato, tutto avverrà con gradualità. C'è un problema di esuberi e dopodiché alla domanda che viene posta al ministro Patroni Griffi, Saif, cioè il presidente dell'Unione Provinciale delle Province Italiane, Saita ha accusato il governo di fare il gioco delle tre carte sui ricorsi delle regioni e si è risentito quando lei lo ha invitato a mantenere un profilo più istituzionale. Risposta del ministro: Saita, sia da vicepresidente dell'UPI che da presidente della provincia di Torino, era stato collaborativo e aveva seguito da vicino il riordino. L'ho invitato a non usare espressioni che non possiamo meritare o accettare. Abbiamo una linea chiara, un nuovo sistema di governance. Demonizzare questa linea non serve a nessuno e penso sia sbagliato, continua il ministro, e qui chiudo la citazione, mettere sullo stesso piano il riscaldamento delle scuole con il taglio delle poltrone. Allora, con questo incipit delle dichiarazioni del ministro, che pure aveva difeso i dipendenti pubblici e che adesso naturalmente non vedeva l'ora di dire che sono gli altri a difendere le poltrone, cioè le province, abbiamo deciso di mettere al centro questa questione, e in realtà io l'ho fatta un po' lunga. Ecco, è arrivato finalmente Antonio Saita, presidente dell'UPI. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Allora, non so se ha sentito, se ha avuto la possibilità di leggere, io nel frattempo che cadeva la linea con lei leggevo le parole con cui il ministro Patroni Griffi le rispondeva già preventivamente rispetto alla faccenda della... Però ammettiamolo, iniziamo di lì, perché i nostri ascoltatori ci chiedono di iniziare di lì. La decisione di tenere le scuole al freddo è un po' pesante, o no? Abbiamo voluto sollevare un problema relativamente a quello che capita, cioè normalmente quando si parla di tagli, ormai il linguaggio anche nel rapporto tra le forze politiche è un linguaggio, come dire, un po' atipico, e in realtà quando si parla di un problema anche di servizi, oltre evidentemente a un problema di razionalizzazione, siamo arrivati, come dire, ormai al punto, per una serie di difficoltà, di dover tagliare quelli che Bondi chiama consumi intermedi, no? Che sono le utenze, che per verità il governo ha fatto anche con una grande semplificazione, considerando tutte le amministrazioni nella stessa maniera, indipendentemente se sono virtuose, come si dice normalmente, oppure no. E quindi abbiamo chiesto al governo: guardate, la dimensione del taglio che avete visto per novembre e dicembre è una dimensione insopportabile, perché in termini assoluti è uguale a quella dei comuni, ma in termini relativi, essendo la spesa dei comuni 7-8 volte di più di quella delle province, vuol dire che noi incide intorno al 30%, ma soltanto per novembre e dicembre. E nel 2013 il taglio è della stessa percentuale nei rapporti comuni, ma di 1.200.000.000. Cioè siamo arrivati al punto in cui i servizi che noi gestiamo, che sono alla fine i due grandi servizi, poi abbiamo altre competenze, strade e scuole, dove c'è un problema di sicurezza che ci preoccupa, perché noi abbiamo i nostri dipendenti che sono ormai, hanno un rapporto continuo con la procura, vanno a visitare una scuola, c'è qualcosa, la procura gli dà la multa, bisogna fare i lavori. Quindi abbiamo sollevato un problema anche di sicurezza e sostanza di investimenti su due grandi questioni. Ma il governo, al di là delle parole di Patroni Griffi che ho letto, è vero che poi vi ha aperto una strada con Vittorio Grilli? Di che tipo, oppure no? Ma è chiaro che quando ho spiegato al ministro che c'è, è iniquo questo considerare uguali comuni e province, pur avendo spese diverse, mi pare di aver capito che c'era un certo stupore. Cioè lei dice il ministro è caduto dalle nuvole perché non si era posto il problema. Probabilmente sì, c'è stata forse una semplificazione, per cui questo tavolo tecnico, dico, noi vorremmo dimostrarvi i dati, i numeri, che cosa capita, che cosa succede in termini di tagli, e poi abbiamo sollevato quella grande questione che quindi conta nel nostro paese. Noi abbiamo in questo momento nelle nostre casse, noi non abbiamo problemi di cassa, nelle nostre casse abbiamo 2 miliardi e 400 milioni fermi, non riusciamo a pagare. Non possiamo pagare per i noti vincoli del patto di stabilità. Le imprese giustamente incominciano a fare i decreti ingiuntivi, perché si tratta di lavori già fatti, hanno già pagato gli operai, i fornitori, e noi dobbiamo man mano pagare lo stesso, no? E pagare anche gli interessi. E la Corte dei Conti non è escluso che un giorno ci dica: ma voi amministratori dovete pagare gli interessi. È un'assurdità questo sistema, se ce lo dice il Tribunale dobbiamo pagare, la legge dello Stato ci dice di non pagare. Io mi rendo conto dei vincoli internazionali, però c'è un'assurdità, perché noi stiamo mandando in crisi le imprese, e in più c'è un elemento non secondario: siccome lavorano per strade e scuole, che sono i nostri investimenti, è chiaro che le imprese che non paghiamo non è che possiamo dire complete i lavori nei tempi che abbiamo definito. Sospendono i lavori, quindi è una situazione un po' caotica in sostanza. Senta, ma lei si è fatto un'idea in questi anni, ora poi da vicepresidente è diventato anche presidente dell'UPI, del come mai, cambiando pure il colore politico dei governi in carica, arrivando fino al governo tecnico, su questo punto, che appare, non lo so, a chiunque sia esterno alla pubblica amministrazione, di banale buonsenso, sì. Cioè modificare il patto di stabilità premiando chi ha avanzi di cassa e consentendogli la riallocazione su altre poste per smaltire impegni di spesa, debiti e così via, sembrerebbe di banale buonsenso. Alla domanda, ma perché la Ragioneria Generale dello Stato in tutti questi anni, cambiando gli indirizzi politici, è sempre stato invalicabile a questo punto? Lei che risposta si è data? Ma io credo che sia un problema, come dire, oltre di vincoli anche internazionali, anche di politica locale, di politica nazionale. Faccio un esempio, poi tecnicamente non so se in termini di contabilità nazionale sia possibile. Noi abbiamo residui perenti, dobbiamo ricevere dallo Stato, e quindi li abbiamo finanziati, 2 miliardi e 800 milioni. Mi viene un'idea che può sembrare troppo banale, ma per quell'importo, no, di soldi che lo Stato ci deve, possibile almeno per una parte sbloccare alcune parti del patto di stabilità, oppure, visto che non tutti hanno vincoli, no, di patto di stabilità, cioè tutto il sistema pubblico nel suo complesso, non è possibile una camera di compensazione, cioè qualcuno ha problemi di competenza, hanno problemi di cassa, una camera di compensazione complessiva, no, nazionale, e quindi c'è, perché nei rapporti con la regione questo è stato fatto, perché non c'è una camera complessiva nazionale che permetta di compiere una scelta nazionale, diceva, beh, allora facciamo gli investimenti sulla sicurezza delle scuole, no? Anziché polverizzarli, anche perché questa modalità di consentire di pagare, no, chi ha fatto i lavori, di riprendere un po' di investimenti in questo momento nei rapporti con gli enti locali, mi sembra l'unica modalità che può consentire, non dico espansione, ma in modo un po' di ripresa, perché parliamo dell'edilizia. E in realtà anche lei dice, tecnicamente non sono in grado di dare una risposta, è pazzesco, perché da anni questo punto, vincolo internazionale, la mia idea è un po' come lo Stato che nega i suoi debiti e crede di spacciare come virtù il fatto di negare i suoi debiti e non metterli in pagamento. Certo. Imprese, cioè se un debito ce l'hai, certo, pare che i privati quando ce l'hanno debbano pagare. Lo Stato, se ce l'ha, dice no, è virtù che io non lo faccio emergere. Sì. Allo stesso modo io non riesco più, qualunque sia il criterio contabile, posso dire una roba, io escludo che sia un impegno internazionale, questa è una roba per cui bisognerebbe prendere la Ragioneria Generale e metterla un po' contro il muro. E capisco che dice, ma non possiamo essere noi delle autonomie, ci deve pensare il ministro e il governo centrale, ma questa è una cosa quella che sta succedendo da anni, tirando in ballo su questa vicenda gli impegni internazionali, è una vicenda risibile, purtroppo risibile, perché il Tesoro preferisce semplicemente e banalmente, dicendo no alla riallocazione delle poste per gli avanzi, avere disponibilità di cassa. E su questa disponibilità di cassa, ricordo a lei che me lo insegna, ma ricordo a chi ascolta soprattutto, che poi, accentrando la tesoreria, il Tesoro ha anche poi, diciamo, l'ha anche riavvicinata a sé. È una mera cosa di questo tipo. Quindi la mia opinione è che ci vorrebbe semplicemente un ministro che su questo stabilisse che è la politica che comanda e non il vertice amministrativo. Senta, andiamo invece alle proteste, Saita, su le 35 province in meno decise dal governo. Lì la via qual è? Quella giudiziale? Come dire, abbiamo qualche problema. Io ricordo che siamo stati noi a proporre l'accorpamento delle province, come Unione delle Province Italiane, attraverso lo studio della Bocconi. E infatti il governo dice: ma perché protestate? Non contro l'accorpamento, ci sono alcune tre, quattro questioni, Pisa, Livorno, tre piccole cose, no? Che avrebbero potuto essere risolte bene se, prima di stabilire dei criteri, la popolazione eccetera, si fosse esaminato bene che cosa sarebbe successo. Non avendolo fatto prima, si dice: beh, allora Belluno è zona montana, Solcro è zona montana ed è giusto mantenere la provincia. È chiaro che questo suscita una serie di rivendicazioni da tutte le parti, che avevamo in qualche maniera sopito, perché ormai noi stiamo lavorando da un po' di tempo per l'accorpamento. Quindi in ogni caso io credo che questi problemi si risolveranno. Non è il tema dell'accorpamento, semmai il problema vero è che quando noi abbiamo proposto l'accorpamento abbiamo detto: vabbè, qui ci avete tutte quelle province, anche se noi siamo l'1,5% della spesa nazionale, vogliamo partire dalle province perché da qualche parte bisogna partire, però contemporaneamente nel momento in cui accorpi le province, cioè togli le province piccole, soprattutto quelle nate nel dopoguerra, accorpi le province piccole, accorpi gli uffici periferici dello Stato, che non sono solo le prefetture, sono anche l'organizzazione dei singoli ministeri. Fai questa operazione perché noi, è chiaro che dall'accorpamento delle province si risparmia, ma l'accorpamento dei tanti uffici periferici si risparmia ancora di più. Sì. Quindi lei dice: lo Stato ha deciso 36 meno province, però per i suoi uffici è tardigrado. Per adesso ho fatto nulla, e lì non è che occorreva il decreto, la conversione, occorre un atto interno ai ministeri. Non c'è stato. Cioè. Senta, ma lei è d'accordo con il Sole che ha scritto che ci sono fino a 12.000 eccedenze nelle province con questo riaccorpamento oppure no? Io non so come il Sole l'ha calcolato, infatti oggi cerchiamo di capire un po' meglio, perché quando si tratta di accorpare, come dire, servizi, è chiaro che si possono avere delle economie di scala per forza di cose, quindi ci sono delle eccedenze, bisogna immaginare una modalità di ricollocazione, qualche modalità, però mi sembra un calcolo molto superficiale. Cioè io credo che ancora il governo non abbia calcolato con precisione che cosa vuol dire. Devo dire, non è semplice, cioè nel senso che occorrerebbe una sorta di ricognizione generale, cosa che avverrà nell'anno di passaggio dalle province attuali alle province accorpate, di ricognizione e di definizione di un'organizzazione che è chiaro che deve essere finalizzata alla riduzione della spesa. Mi sembra, come dire, un po' troppo prematuro per dare dei numeri. Allora, Presidente Saita, io la ringrazio. Dall'altra parte le devo dire che gli sms degli ascoltatori dicono le scuole al freddo non è un sistema, cioè non ci crede, posso dirle fuori dai denti. È chiaro che oramai anche l'opinione pubblica non troppo formata ha capito che il più delle manovre è intervenuta linearmente su la finanza locale da parte dello Stato, questo non c'è dubbio, però la forma di protesta che lascia al freddo gli studenti alla gente non piace, perché diciamo, dovete sospendere cose meno insostituibili che il riscaldamento ai nostri figli. Io glielo dico perché sono certo di interpretare la totalità dei messaggi che abbiamo raccolto qua. E ora, dopo aver salutato e ringraziato Antonio Saita, vi presento subito il presidente dell'Industria Treviso, Alessandro Vardanega. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei Giannino e anche ai suoi radioascoltatori. Che nella dialettica interna alla sua regione, dove ci sono accorpamenti importanti di province, naturalmente è sceso in campo con una voce energica a nome delle imprese, cioè ha sostenuto con forza la tesi degli accorpamenti. Allora, presidente Vardanica, presidente di Un'Industria Treviso, lei è di quelli che insomma hanno detto: ci troviamo con questi accorpamenti del governo, 36 province in meno, invece di stare qui a spaccare il capello, energicamente cavalchiamole e dirigiamole, per così dire, verso gli accorpamenti che facciano più senso dal punto di vista economico, cioè in Veneto, per esempio, quello tra Padova, Treviso e Venezia. Sbaglio? Certo, certo. Noi chiediamo che la politica in questa fase debba assumere l'iniziativa e guidare il cambiamento. Abbiamo di fronte a noi dei problemi evidenti in questo paese, abbiamo un problema di risorse e abbiamo delle sfide importanti in una competizione di un mondo globalizzato che non tocca solo le imprese ma tocca certamente i territori. Il nostro pensiero è che questo paese oggi non possa più permettersi quattro livelli di tipo amministrativo, Stato, Regioni, Province e Comuni. Il nostro pensiero sarebbe quello che le province dovrebbero essere eliminate, facendo crescere la dimensione media dei comuni, spingendoli, obbligandoli agli accorpamenti e dando evidentemente peso specifico alla regione e a livello comunale. Però questo del governo, certamente ancorché non corrisponda totalmente al nostro pensiero, comunque rappresenta un passo in avanti, perché consente di scardinare un'articolazione amministrativa su base provinciale che oggi noi riteniamo sia superata dei tempi. Per cui mi auguro che la politica sappia assumere, come dicevo prima, l'iniziativa per guidare questo cambiamento, che deve essere gestito dalla politica, non può essere gestito da un organo giurisdizionale. Qui la politica deve dimostrare la capacità di interpretare quello che sta già avvenendo nei territori e quello che corrisponde, a mio avviso, a un sentimento comune, perché la gente con la quale mi confronto, non solo gli imprenditori, tutti sono pronti e disponibili ad andare in una logica di tipo aggregativo. Per cui credo che mi aspetto, il desiderio è quello che questo decreto possa essere convertito, che si possa vedere finalmente l'aggregazione tra le province come fase intermedia anche per andare un domani al superamento di questi confini provinciali. Ecco, io devo dire la verità, che io avrei preferito, cioè quello che non mi persuade di questo intervento è che ancora una volta la scelta del 36 con i suoi criteri è più che altro pensando a un minimo di saldo di spesa per lo Stato. Io non ci vedo ancora il disegno organico. Il mio disegno organico sarebbe quello di fare una riflessione seria: il più dei poteri ai comuni, che sono il livello su cui va organizzata la sussidiarietà e l'offerta di servizi, che significa che i comuni vanno ridisegnati secondo ambiti, certo, di mercato ottimale dei servizi che devono prestare, quindi 5.000 su 8.000 si dovrebbero accorpare come ordine di grandezza, province niente, regioni più indirizzo che gestione, al massimo tranne per la sanità, ma per il resto una cosa così. Invece voi in Veneto, per l'effetto del riaccorpamento, restate, sì, Venezia diventa città metropolitana, dopodiché, a differenza di altre regioni dove gli accorpamenti sono più, insomma, significativi, in realtà poi Vicenza resta capoluogo, Verona resta capoluogo, Padova con Rovigo resta capoluogo, Treviso con Belluno resta capoluogo. Cioè gli accorpamenti in realtà muovono abbastanza poco, per quanto adesso sentiremo che c'è naturalmente chi si oppone, ma mi sembra che fatti così non muovano molto, o no, presidente? No, dicevo prima che non corrisponde, non è un disegno compiuto, razionale. Può essere un primo passo per scardinare l'articolazione provinciale. Il disegno, quello che noi stiamo sostenendo, è quello di definire un'area metropolitana, quindi eliminare i confini provinciali, definire un'area metropolitana attorno a Venezia che prenda parte della provincia di Treviso, di Venezia e di Padova, quindi non necessariamente tutti i territori di queste province, ma disegnare dal punto di vista amministrativo un'area che di fatto è già diventata omogenea per come la gente si muove, per come la gente lavora, per le infrastrutture che sono state disegnate e che sono state realizzate in questi anni. Quindi si tratta di riconoscere amministrativamente una realtà omogenea che c'è già, che può avere una massa critica capace di affrontare le sfide, perché oggi noi abbiamo bisogno di una scala dimensionale diversa, perché in un mondo globalizzato ci confrontiamo con metropoli che hanno dimensioni di un certo tipo, abbiamo sfide importanti, quindi solo la dimensione ti consente di, e questo è un dato di fatto che oggi c'è già, la politica deve riconoscerlo, la politica deve dargli una veste giuridica, il territorio dobbiamo governarlo in una logica sovraordinata rispetto ai ristretti confini provinciali. Questo è quello che chiedono gli imprenditori e per questo si sono dedicati a studiare, ad approfondire esempi di aree metropolitane a livello europeo, per esempio il caso di Lille metropolitana, che assieme a Roubaix piuttosto che Tourcoing ha creato un'area metropolitana che oggi riesce a dare delle vocazioni a quei territori che diversamente non riuscirebbero ad avere. Ora si è aggiunto a noi, la prego di lasciarci, di restare ancora con noi se può, Presidente Vardanica, sì. Si è aggiunto Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, si è opposto, continua a opporsi agli accorpamenti invece. Buongiorno Presidente Muraro. Buongiorno a tutti voi, un saluto all'amico Alessandro Vardanega. Ecco, abbiamo apposta scelto come, scelto come interlocutori che vi conoscete direttamente, per così dire. Allora, Muraro, abbiamo prima sentito Saitta. Saitta ci ha detto esistono dei problemi perché i criteri scelti dal governo non se avessero riflettuto meglio ci sono un po' di problemi da risolvere. È anche stato prudente però nel dire no alla lotta generale contro gli accorpamenti. Lei invece è più deciso nel dire questi accorpamenti così, e dice il presidente di Treviso Muraro, non servono a niente, così? Ma non è che non servono a niente, noi non ci siamo mai responsabilizzati nel sostenere i tagli contro gli sprechi. Quello che vogliamo far portare come istanze è, ok, dateci l'indicatore in termini numerici di riduzione dei costi, riduzione di quelle che possono essere la composizione numerica all'interno di un'area omogenea, e lasciamo che sia il territorio a decidere l'omogeneità con le caratteristiche. Caratteristiche di un territorio non sono solo quelle geometriche di fare delle composizioni, delle figure geometriche che non hanno nessun senso, ma guardiamo gli aspetti economici, sociali, culturali di un territorio, dopodiché noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma in maniera anche responsabile. Ieri col ministro Grilli io ho sostenuto degli esempi che credo siano dei fatti concreti nel dimostrare che i parametri della scure, senza avere la conoscenza di quelli che sono i bilanci degli enti province, non portano un risultato, perché è quasi impossibile realizzare quello che ci chiedono. Porto un parametro solo. Allora, io ho un costo della provincia, del personale, parametro 100 per fare un esempio, il mio costo del personale è il 22%, il costo del personale della provincia di Messina è il 57%. Loro dicono tagliamo un tot sui costi intermedi. Io ho un costo intermedio di 68%, per cui da 22 a 168, Messina 43%. Io pago molto di più, essendo un ente che ha già ottimizzato i costi verso i propri cittadini. Allora, dicono il ministro Grilli, ci dia, il Veneto deve ridurre di X 300-100 milioni di euro. Bene. Noi siamo disponibili a raggiungere l'obiettivo che ci dice il ministro Grilli, ma ci lasci operare dove noi possiamo, che possiamo operare. La stessa cosa nella composizione, vogliono che ci siano 4 province nel Veneto, che ci lasciano la possibilità, assieme all'ANCI, i comuni del Veneto, assieme alla regione, di definire quali che sono le aree e le 4 province. Presidente Muraro, mi faccia capire, responsabilità nostra. Quando lei dice facciano decidere noi dal basso, intende i livelli, cioè qual è l'ambito all'interno delle regioni in cui le singole amministrazioni provinciali decidono mettendosi d'accordo tra loro, secondo lei? A, oppure B, è un'ipotesi nella quale si chiamano i cittadini a dei referendum consultivi o addirittura decisionali? Secondo lei quale sarebbe il metodo più giusto? Ma dipende dall'arco temporale, loro chiedono questa riforma. Se hanno una fretta, perché ok, c'è la fretta, molto bene, si può decidere già da subito all'interno della CAI, Conferenza delle Autonomie Locali, dove è rappresentativa dei sindaci, dei presidenti di provincia, delle regioni, che possono definire e raggiungere gli indicatori del governo. Dopodiché ci può essere, se questa è la richiesta, in tempi strettissimi, dopo ci può essere una rettifica da parte dei cittadini. Ovvio che partiamo dal presupposto che un sindaco, un presidente di provincia, un presidente di regione sono delle persone elette, per cui hanno avuto già una fiducia da parte del territorio. Se invece c'è più tempo, ci possiamo fare attraverso delle consultazioni. Qua si parla dei commissari già nel 2013, da quello che ho capito, no? Lei mi conferma? No, i commissari no. Nel 2013, prima gennaio 2013, vorrebbero mandare a casa tutte le giunte. I presidenti rimangono in carica, il commissario viene. La questione del commissario è basata sulle quelle province che vanno a scadenza nel 2013, che sono molto poche, esatto, in Italia. Sì, esatto. Mi ero sbagliato io. Però voglio dire, dal punto di vista degli accorpamenti decisi invece, indicati dal governo, per per, lo diciamo prima con il presidente Vardanica, in realtà il Veneto è colpito molto meno di altre regioni, perché col fatto che Venezia resta città metropolitana, poi restano con la loro provincia Vicenza, resta la provincia Verona, per Padova c'è l'accorpamento con Rovigo e per Treviso c'è quello con Belluno. Che cos'è che non funziona secondo lei? No, ma che è saltato tutto dopo l'ultimo nel decreto legge 188 pubblicato l'altro giorno. È cambiato ancora, perché? Perché l'asse Zanonato-Orsoni, che vogliono creare città metropolitana, hanno modificato anche l'idea al ministro Patroni Griffi. Io qui per questo gliel'ho detto, quindi vede che dal basso però è arrivato l'input ed è stato adottato. No, non è arrivato l'input. L'input è arrivato da un'area di partito, esatto, ben definita, che è il PD, okay, il quale hanno il ministro Griffi ha addirittura stravolto il suo decreto legge, perché il decreto legge, per chi lo ha letto, parlava che entro il 3 ottobre il territorio doveva fare la sua proposta, il CAL, alla regione, e la regione inviava il 23 ottobre al governo, cosa che è stata fatta e che il governo non ha tenuto conto. Le porto un altro esempio. I comuni di Brindisi, Lecco, quindi, no, qui l'accusa è il governo sta, rispetto alle sue proposte, cambiando idea, sentendo con un orecchio riservato solo pezzi di politica che ritiene a sé meno lontani. In questo caso lei ha fatto il nome di due esponenti di amministrazione di sinistra. Esatto, ma allora questa guarda, è partitica, non è un progetto di riordino fatto con il territorio, non si tiene conto della volontà del territorio, ma si tiene conto degli amici di area politica. Aspetti, questo è chiaro, io ci sono arrivato appunto a farglielo dire a lei, che questa è la sua opinione. Posso chiedere al presidente Vardanega se ha avuto la stessa impressione che per quello che riguarda i criteri di riordino modificati delle province in Veneto ci sia stato, per così dire, un ascolto politico? Ma l'impressione è che la violenza del dibattito che si sta sviluppando in questi giorni, con la contrapposizione tra forze politiche, nasca proprio anche da logiche di tipo partitico. E questo è un peccato, perché il tema non solo è importante e non solo è attuale, ma il tema è davvero di grande emergenza, e la spinta che viene dal territorio di una logica aggregativa che ci veda superare i confini provinciali, una spinta molto forte. E quando prima dicevo che la politica deve assumere l'iniziativa, lo deve fare perché... Perché evidentemente oggi abbiamo bisogno di definire un contesto differente. Il presidente Muraro, quando diceva il governo dovrebbe darci il tempo di decidere noi, in linea di principio va bene, però il presidente Muraro, che è un amministratore attento, sa bene quanto forti siano le resistenze. Le porto un esempio. Noi crediamo che i comuni, che sono troppi anche in Veneto, solo su Treviso abbiamo 95 comuni per una popolazione complessiva di 850.000 abitanti e più di un terzo dei comuni hanno meno di 5.000 abitanti. Dobbiamo aggregarli. Come associazione abbiamo investito risorse nostre, oltre 100.000 euro, per condurre degli studi concreti su alcune amministrazioni locali, per poterli aggregare in una logica di efficienza amministrativa. Quindi abbiamo finanziato noi un progetto concreto con degli esperti anche internazionali, eppure abbiamo colto molta resistenza, malgrado abbiamo aiutato gli amministratori locali nella logica di aggregarsi. Quindi c'è una resistenza molto forte. Qui è importante che la politica, secondo me la politica nazionale ha fatto bene a tracciare l'obiettivo, perché diversamente correremo il rischio, sì, di darci degli obiettivi, ma non con termini perentori. E oggi invece noi dobbiamo arrivare a un'efficienza e efficacia amministrativa in tempi molto stretti. Allora, io condivido l'idea dei tempi stretti, però se i tempi stretti poi sono criteri un po' così e cos'ha, come a me sembrerà, io temo che per decenni non toccheremo più questi livelli intermedi dopo questo intervento dei 36. E francamente penso che siano un po' discutibili, per di più se lo si fa ascoltando. Io credo che abbia ragione il presidente di Treviso quando dice: com'è che questo governo poi dice che non sente nessuno e sente solo qualcuno se è di una parte politica? E questo anche a me non è piaciuto. Allora, su questo amaro danza disorganica, approssimativa e naturalmente con rivolte e proteste su Italia e le province, vediamo un po' cosa ne pensate. Ma Sergio da Livorno, cominciamo con Sergio. Prego Sergio. Sì, buongiorno. Io parlo perché il presidente delle province ha detto che minaccia di togliere il riscaldamento nelle scuole. Sì. Ora, secondo la mia esperienza, che io faccio l'ispettore, giro in Toscana un centinaio di istituti. Lei fa l'ispettore scolastico? ispettore per quanto riguarda gli esami di patente europea del computer sì. che avvengono nelle scuole. Quindi in pratica io mi trovo un sacco di volte in aule con una temperatura eccessiva e le finestre aperte e mi dicono sempre dipende dalla provincia, dipende dalla provincia. Per cui ci sono degli sprechi immensi e non capisco perché minacciare di togliere il riscaldamento, dovrebbero gestirlo bene. C'è una scuola in una città toscana che era pericolante, è stata un anno senza nessuno dentro, con il riscaldamento acceso, con professori che chiamavano e dicevano spegnete il riscaldamento, non c'è nessuno con la scuola. Quindi la sua idea è paradossalmente è un vantaggio. Ho capito il paradosso, perché comunque si spreca energia. Sentiamo Paolo Guiotto che chiama da Padova. Prego Paolo. Sì, buongiorno. Io sono consigliere comunale del comune di Padova del Partito Democratico e sono intervenuto perché abbiamo votato giusto due lunedì fa in consiglio comunale la delibera che proponeva l'istituzione della città metropolitana con Venezia. E volevo un po' confutare quello che diceva il presidente Muraro, cioè la nostra è una scelta che cerca in questa situazione di guardare alla realtà, giustamente come diceva il presidente Vardanega, cioè noi siamo a 20 km da Mestre, abbiamo 4 binari di ferrovia di cui due ad alta velocità, abbiamo per esempio un distretto industriale come il calzaturiero del Brenta che fattura 2 miliardi di euro all'anno, il 91% esporta, impiega 10.000 persone, che è diviso al 40% tra la provincia di Padova e al 60% tra la provincia di Venezia, proprio al confine tra le due province. Ecco, queste sono la realtà. Abbiamo la zona turistica dei Colli Ugani, Abano Terme, che non a caso, pur avendo un colore diverso, il sindaco di Abano Terme è molto interessato ad aderire a questo progetto. E questa è la realtà, cioè cerchiamo di riguardare alla situazione per poter ridisegnare in un modo più organico quello che sono, diciamo, i territori sulla base di quelle che sono le esigenze contemporanee, non sulla base di un'esigenza di bandiera. Quando ci dicono bisogna unirsi a Treviso, va bene, con Treviso per esempio non abbiamo una ferrovia diretta, tanto per dirne una, bisogna andare o a Castelfranco oppure andare fino a Venezia per cambiare. Cioè, è chiaro che bisogna essere un po' più contemporanei e non difendere solo il proprio territorio e la propria poltrona. Va bene, lì l'accusa però era di aver ascoltato la vostra proposta nella modifica dei criteri, di non averne ascoltate altra, tutto qui, cioè ho capito, anche Confindustria e di una logica di integrazione per aree economiche, però questo, siccome non c'è più Muraro, lo dico semplicemente, la ringrazio per aver chiamato ed è chiaro che ha un senso quello che dice. Il problema è però il governo, se ascolta solo alcuni e altri no, e a quel punto continua ad avere ragione anche Muraro, e quindi questo è un po' discutibile. Massimo da Pistoia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io mi intervengo, a parte il fatto che mi sembra una cosa assurda rivalersi su dei bambini per il riscaldamento, cioè se li tolgano nei loro uffici. Sì. Cioè, però lei è favorevole all'accorpamento o avrebbe preferito l'abrogazione? No, guardi, io ho telefonato proprio perché sono d'accordissimo con il suo ospite di Treviso. Ma, venga al punto, dobbiamo chiudere. Le province devono essere abolite. Perfetto.